white girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my hands like the baby. Ciao a tutte. Oggi apriamo la trasmissione con una notizia che no, non è propriamente femminista, però ci riguarda tutte e tutti. Questo pomeriggio è stata emanata la sentenza di primo grado per Cucchi. Sono stati assolti tutti gli agenti e condannati 6 medici per omicidio colposo. Il pubblico, i presenti hanno cominciato a gridare assassini, assassini alla lettura della sentenza e sono dovuti intervenire Bontaloro, carabinieri e poliziotti. È una sentenza scandalosa anche per la democrazia parlamentare, per questo sistema, per la giustizia di questo sistema. Di solito che cosa succede? Che in primo grado, data il caso particolarmente forte, venivano di solito in questi casi si danno delle condanne lievi, chiamiamole così, che poi in secondo grado vengono abbassate ulteriormente, che poi vanno in prescrizione. Questo è l'iter della cosiddetta giustizia. In questo caso la sentenza è stata addirittura spudorata. E una nota che vorrei fare io come donna e che ci riguarda come donne: di solito i medici sono una categoria estremamente piena di sé, presuntuosa, convinta di avere l'immunità, convinta di avere dei benefit riguardo alla professione e quindi di non pagare in ogni caso quello che fanno. Noi donne lo sappiamo spesso e volentieri, e sappiamo come vengono trattate le donne, per esempio, un esempio fra tutti, negli ospedali dove ci sono i cosiddetti obiettori di coscienza, quando vanno a chiedere la pillola del giorno dopo, quando vanno per abortire, quando vanno per chiedere dei servizi anche di semplici informazioni. In questo caso però i medici devono fare un passo indietro rispetto alla polizia. Quando è successa la tragedia di Cucchi, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa: non pagherà la polizia e pagheranno i medici. Where'd you put the keys, girl? the SkyTrain station, the streets were full of junkies and homeless, and they all wanted something. They all wanted something. Sometimes look you in the eye, say that I too am human, I could easily be. Passiamo alle notizie che in effetti riguardano soprattutto quello che sta succedendo in Turchia. Quello che sta succedendo in Turchia è importante per svariati motivi, perché è uno degli ennesimi momenti di rivolta contro questo sistema globale di sfruttamento, di oppressione. E la cosa che ci ha colpito di più in questi giorni è stato proprio leggere giornali, riviste, sentire telegiornali e comunque tutti i media, e vedere come hanno presentato le rivolte, le agitazioni, una volta le hanno chiamate così, una volta le hanno chiamate colà, che sono successe in Turchia. E ogni giornale e comunque ogni mainstream, a seconda della convenienza e del taglio che voleva dare alla notizia e quindi portarla dalla sua parte, l'ha trattata in una maniera particolare. Don't you know that talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know how talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds. E allora, a questo proposito, insomma, cioè, volevamo partire appunto proprio dall'analisi che è stata fatta dal sito di Militant, insomma, che abbiamo preso, vabbè. E niente, in cui appunto cioè, si parte dall'idea che cioè, in questi giorni in realtà quello che è stato fatto riguardo alla Turchia dai media ufficiali, Corriere della Sera, Repubblica, è stato molto mettere l'accento su quella che è sulla protesta della birra cosiddetta, che già è un nome veramente ridicolo, e che appunto, insomma, mettendo l'accento sul fatto che in realtà sia tutto nato dalla dal fatto che è negato a questi giovani che si stanno ribellando in piazza di poter, è negato il fatto di poter bere una birra liberamente, e quindi metterla sempre su una questione di tipo religioso, ecco. Per cui, partendo da questo, insomma, leggere alcune parti di questo articolo. La protesta della birra, caroselli con gli alcolici in mano, una folla variopinta, coppiette che si baciano sulla bocca, ambientalisti che vogliono difendere 600 alberi. E a questo che i media italiani riducono la rivolta che negli ultimi giorni ha preso corpo in varie città della Turchia, descrivendola come un fenomeno di costume. Una rivolta che ha al momento un bilancio di 1000 feriti, 1700 arrestati e almeno 3 morti, però insomma comunque le notizie abbiamo preso ci dicono anche di più, e quindi così. I due principali quotidiani online italiani, Repubblica e Corriere, in realtà ha pubblicato due articoli pressoché identici, riprendendo evidentemente una nota di agenzia senza ritenere necessaria alcuna ulteriore spiegazione. C'è da dire che questo è dovuto al fatto che comunque il governo neoliberista islamista di Erdogan è uno dei più fedeli alleati dell'Occidente, oltre che dei ribelli siriani. E infatti per i maggiori quotidiani di fatto è un problema di rivolta verso alcune norme restrittive rispetto ai comportamenti giovanili, oppure è un problema di ambientalisti, perché poi di fatto la protesta è nata dalla decisione del governo di cementificare il parco Gezi, che sarebbe come se cementificassero qua Villa Borghese, e dovrebbero farci un mega centro commerciale. Al di là che questo è un atteggiamento, cioè è una modalità che sta prendendo piede proprio in Turchia, in particolar modo a Istanbul, molto appoggiata dal governo, che è quella della sostituzione della popolazione di interi quartieri, tant'è vero che alcuni sono stati sfrattati in maniera pesante tempo fa, e al suo posto vengono costruite nuove case, quartieri residenziali. Quindi c'è proprio una sistematica aggressione a quello che è il tessuto abitativo e sociale della città, e comunque un programma a lungo termine che ha fatto il governo. Dall'altra parte tendono a dire che è un problema di governo islamico, no? Che è una reazione al fondamentalismo islamico, e quindi i giovani si ribellerebbero alla normativa. Cioè c'è anche questo, c'è anche la ribellione al fondamentalismo islamico, c'è anche la ribellione alla cementificazione, c'è anche la ribellione al tentativo di normare le vite. Però secondo noi non è solo questo, o comunque la cosa più importante non è questa. È una ribellione che è nata da la difesa del parco Gezi, però ha risvegliato nelle coscienze il desiderio di ribellarsi a questa forte occidentalizzazione, ma nel senso di occidentalizzazione secondo i valori neoliberisti, che poi è lo stesso tipo di protesta che attraversa anche i paesi occidentali. Ricordiamoci quello che è successo a Stoccolma, e anche a Stoccolma tentavano di ridurlo a un problema di ribellione in un quartiere che era composto soltanto di migranti, e quindi ridurlo a insoddisfazione della popolazione immigrata, mentre era una ribellione che aveva forti connotati politici. Sit in the chair and be good now. Oh, and become all that they told you. The white coats and a room. And I'm calling my baby. Calling. C'è da dire che comunque, voglio dire, poi in realtà questo silenzio, tra virgolette, che in Italia c'è stato sulle politiche repressive che sono state messe in Turchia, non è, cioè, non è casuale. Comunque in questo caso non è neanche un silenzio, ma più che altro una distorsione, come al solito. E l'abbiamo visto anche stesso qua in trasmissione, quando parlammo di ciò che avvenne alle musiciste del gruppo Your Home, che in realtà è un gruppo legato comunque all'estrema sinistra, e che insomma ci ricordiamo che, ora non ricordo esattamente settembre scorso, in realtà ad opera della polizia turca due artisti, nello specifico la cantante e la violinista di questo gruppo, furono torturate, e la cantante uscì con un timpano rotto e la violinista uscì invece con le ruppero il braccio, e quindi insomma già avevamo avuto un assaggio. Anche insomma in svariate occasioni abbiamo parlato anche, voglio dire, di Binar Selek, che insomma certo, è perseguitata per la sua attività e la sua posizione politica. Ma per quanto riguarda poi il gruppo Your Home, la cantante e la violinista, che è quello che sentiamo sotto. Bene, sì, sì, infatti abbiamo messo a posto, perché sono state torturate, sono state scelte, almeno noi abbiamo avuto questa sensazione all'interno del gruppo musicale, che è un gruppo misto, sono state scelte proprio perché erano la parte, secondo i poliziotti, più fragile, e essendo donne, no, tra virgolette. E a questo punto poi sono state torturate in maniera mirata, perché alla violinista è stato rotto il braccio e alla cantante è stato rotto il timpano. Non è assolutamente casuale. Dallarına yangın toprakmışım, yağmurlarına sargın yaprakmışım, dallarına yangın toprakmışım, yağmurlarına. Türkü olmuşsun, umut olmuşsun, sevda yarınlarına. Türkü olmuşsun, umut olmuşsun, sevda yarınlarına. Türkü olmuşsun, umudummuşsun, sevdana yarınlarına. Quindi è una rivolta contro un sistema di vita che si sta instaurando in tutti i paesi e che si collega in effetti come un filo rosso, e che unisce noi a loro, per cui alla protesta hanno partecipato, alla protesta che poi non è proprio una protesta, è una vera e propria ribellione, è una ribellione, è una rivolta, è una protesta, è un'insoddisfazione rispetto alla vita e rispetto ai tentativi di costringerla entro ambiti ancora più angusti di quelli che abbiamo. Sì, no, infatti, cioè, c'è da dire che però appunto questa rivolta infatti è un po' particolare rispetto a quelle che poi come dicevi tu magari si stanno verificando anche, voglio dire, in qualche modo sicuramente in maniera riduttiva qui in Italia, insomma, però che in generale le rivolte che abbiamo nell'Europa, perché comunque c'è da dire che lì la situazione economica è molto diversa, nel senso che comunque lì non c'è in questo momento una politica d'austerità, ma c'è una situazione per cui in realtà è un tipo di capitalismo in espansione ancora, e dove appunto in realtà da anni comunque c'è una grossa espansione, e dove però Erdogan, il partito, la parte di borghesia che si porta dietro, in realtà si stanno tra virgolette mangiando tutto ciò che da questa espansione deriva, e questo fa sì che comunque in realtà all'interno della società questo ricavo, questa espansione non ritorni a livello di servizio, comunque a livello lavorativo, con aumenti di salari eccetera eccetera, per cui in realtà è una rivolta che è legata più a questo, quindi al fatto che non ci sia un riscontro da quello che è appunto l'espansione capitalistica e invece l'aumento, il miglioramento comunque benessere delle classi proletarie. E infatti, insomma, da un articolo abbiamo letto, cioè che ci siamo letti, insomma, si legge proprio appunto che in realtà mentre una fetta ristretta si arricchisce, investe e trasforma anche il territorio per renderlo più consono ai suoi interessi, appunto, quindi la parte neoliberista, la gran parte della popolazione si impoverisce, è costretta a lavorare in condizioni sempre peggiori, ricacciata dai propri luoghi, non intravede alcuna possibilità di promozione sociale, quando pure questa sarebbe tecnicamente possibile. Che la crescita di un'economia non generi ricchezza per i proletari non è una novità dai tempi di Marx, ma non lo è nemmeno il fatto che questa crescita del capitale in circolazione si accompagni con una ripresa e un allargamento delle lotte. E quindi niente, infatti c'è comunque anche da dire che all'interno di questo di questa rivolta in realtà confluiscono tutta una serie di malcontenti, che cioè compresi ad esempio anche le rivendicazioni curde, insomma, sì, infatti politici di vario, cioè connotazioni politiche diversissime, comunisti, anarchici, socialdemocratici, sindacati, curdi, anche gli ultras, dobbiamo gli ultra, diciamo, delle curve, che qui da noi sono stati terreno di sperimentazione, ma lo sono evidentemente anche là, per le politiche securitarie che sono state poi applicate nelle manifestazioni di piazza, tutti quei meccanismi di controllo, di perquisizione, i lacrimogeni, la schedatura, lo stesso DASPO che vorrebbero applicare per le manifestazioni di piazza. E poi le donne che hanno fatto diciamo del diritto all'aborto, alla contraccezione, una delle rivendicazioni che hanno portato in piazza anche lì, la devastazione ambientale. E è un insieme di proteste, o comunque di insofferenza, perché la protesta è sempre protestare contro qualcosa che si chiede. Questa non è una protesta contro qualcosa che si chiede, è un rivendicare spazi di libertà. Don't you talk about me when I'm gone. talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. But here's a little kiss, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on. Just don't talk. Please don't talk. Don't you talk about me when I'm gone. Chiaramente la depressione del governo è stata durissima, ma la depressione di Erdogan non è una cosa particolarmente eclatante, perché è un tipo di depressione che viene utilizzata continuamente in tutte le piazze anche occidentali che osano sollevarsi. Di solito sono sempre momenti di sperimentazione di tutta una serie di armamentari che vengono provati per vedere se funzionano e se sono riutilizzabili. Infatti in questo caso sembra che siano stati utilizzati gas lacrimogeni proibiti per ammissione dello stesso Erdogan, che ha parlato di errore, ma tra cui alcuni di colorati che così sporcano i manifestanti. I manifestanti possono essere rintracciati e sono resi riconoscibili da questa colorazione, quindi possono venire arrestati anche dopo. Sono stati sparati proiettili di gomma, vari tipi di granate, poi vengono usati tantissimo gli idranti, no? E in alcuni casi si è giunti anche a sparare. Allora, tutto questo è un tipo di atteggiamento che è continuamente usato, come nelle guerre, nelle aggressioni neocoloniali. Oltretutto le manifestazioni in Turchia hanno anche connotati di appoggio alla Siria, perché la Siria è stata sempre considerata un paese amico, e sono in questo periodo, cioè da mesi a questa parte, ci sono tantissime manifestazioni lungo il confine con la Siria di appoggio alla Siria e contro l'intervento, contro l'adesione ai diktat occidentali del governo di Erdogan. Questo tipo di manifestazioni sono state passate assolutamente sotto silenzio, non se ne sa niente, e comunque hanno un peso molto importante anche nel comune sentire della popolazione turca. Un'altra nota a margine, questa, che questo tipo di rivolte, che infatti appunto ci sono in svariati paesi occidentali e non, sono state messe in preventivo, non sono fulmini a ciel sereno, sono state messe in preventivo perché le condizioni di vita delle popolazioni vanno sempre a peggiorare, e il progetto NATO, il famosissimo Urban Operation in the Year 2020, è stato fatto apposta per pensare a come affrontare queste rivolte con l'esercito. Noi qui in trasmissione qualche mese fa ci siamo prese la briga di prendere l'Urban Operation in the Year 2020 e di analizzarne delle parti, ed è pauroso per come ha intenzione, per la consapevolezza che si porta dentro di quello che può succedere per le politiche neoliberiste, a che cosa possono dare adito le politiche neoliberiste. Quindi questo significa che tutte queste cose non stanno prendendo non lo so, alla sprovvista i governi, ma sono state previste, calcolate, e non sono altro che il risultato di una ridefinizione dei rapporti di forza tra le classi sociali e tra le potenze. Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the little stalled peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, all is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove. E allora, a proposito sempre di questa questione, questa rivolta turca, in realtà si sono spese di tantissime parole in questi giorni, però caso voluto abbiamo trovato un articolo in realtà molto divertente su un blog che si chiama I black bloc simpatici sono quelli degli altri. Cronaca di un abbaglio rivelatore. Come cambiano le prospettive quando chi protesta non è tra noi? Un caso studio. Stamattina, sfogliando la stampa, non credevo ai miei occhi, ancora senza occhiali. Furibondi scontri per il taglio degli alberi. La grande fotografia mostrava alcuni dimostranti definiti con evidente simpatia ai giovani, con tanto di maschere antigas, caschi e pietre. Un reportage sorprendente, tutto dalla parte dei giovani e delle centinaia di castani ultracentenari tagliati in Val Clarea per fare posto a un cantiere che sempre meno gente, anche tra gli alti papaveri, vede con simpatia. Fantastico, mi sono detto tra un boccone e l'altro dei miei uova e bacon. Cos'è successo? Leggo una cronaca di fatti di cui non ero stato messo al corrente dopo aver spento il telefono troppo presto. Ieri sera, con gli alberi rischia di venire abbattuta anche una parte della nazione. La giornata di guerriglia è iniziata all'alba. I reparti antisommossa hanno preso d'assalto con manganelli, cannoni ad acqua, spray urticanti i giovani che dalla sera prima presidiavano. Il bilancio degli scontri è salito rapidamente nel corso della giornata. Si parla di 1000 feriti, di 5 persone che hanno perso la vista a causa dei fumogeni e di 100 arresti. Per disperdere la folla sono stati impiegati elicotteri che hanno sparato fumogeni dall'alto. Beh, come al solito, ho pensato, niente di nuovo. È 2 anni che vanno avanti così. Hanno iniziato venerdì notte sbattendo pentole contro i muri. Già, la solita battitura. Il tantam è proseguito su Facebook e Twitter. Tutti in piazza come una grande famiglia nella quale convivono anime diverse. L'abbiamo sempre detto. Siamo qui, siamo tanti, siamo diversi. Siamo in tanti a essere stanchi. Questo governo se ne deve andare. Siamo all'autoritarismo. C'è anche un veloce ritratto di un dimostrante chiaramente venuto da fuori, un certo Nirgul. Deve essere un anarco insurrezionalista di quelli che girano il mondo a far casino. Eppure, alle lacrime agli occhi, la polizia ha lanciato l'ennesima carica, lacrimogeni e manganelli. È appena scappato e prende fiato. C'è comprensione in chi scrive l'articolo e non si citano né Esposito né qualcuno di simpaticoni di sindacalisti poliziotti che non perdono mai occasione di chiedere un aggiornamento delle regole d'ingaggio. Clamoroso. Mai letta una cronaca così simpatetica con i valsusini. Com'è possibile? Hanno fatto un golpe alla stampa? Ha preso il portiere Gramellini e hanno mandato Calabresi a dirigere il giornale? Numa è stato cacciato e ha raggiunto i vecchi camerati a Torino Cronaca? La proprietà è passata a Don Ciotti? Faccio notare il tutto a mia moglie che dopo un rapido sguardo mi dice: i giornali leggili quando ti sei svegliato. Oh, perbacco, era un servizio dalla Turchia. Questo succede spessissimo, le lotte buone sono sempre quelle che succedono lontano da casa nostra, le lotte di casa nostra sono da demonizzare. Questo vale per le lotte di liberazione, vale per le lotte dei valsusini, vale per le lotte in America Latina, vale per le lotte nel terzo mondo, vale per le lotte in Africa. Quando succede qui da noi, sono pericolosissimi i black bloc, le donne hanno perso la testa e hanno smesso di fare la maglia e sono perfino andate in piazza. Vi ricordate quello che hanno detto delle donne della Val di Susa quando hanno partecipato alle manifestazioni? E vi ricordate quello che hanno detto delle donne nella manifestazione del 15 ottobre? I giornali. Bene, adesso però le famose, i black bloc sono lontani da casa. Allora, le rivolte in Turchia sono coraggiose, noi siamo d'accordo, intendiamoci, sono contro un governo autoritario, sono contro la cementificazione, sono contro un governo anticapitalista. E qui da noi che cosa direbbero se noi le facessimo uguali? E vai. Sometimes I don't know reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. Well, one time friends I had a mirror, I even had a pearl. He beat her with a belt once, 'cause she cried. She told him to take care of me. She headed down to Tennessee. Well, it's easier just waiting around to die. Then I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. She cleaned me out and she hit it on the side. Well, I tried to kill the pain, I bought some wine off the tray. Well, it was easier than just waiting around to die. E giusto, diciamo, in chiusura di questa parentesi, se vogliamo dirla, turca. Insomma, c'è da dire che comunque in realtà il governo neoliberista islamista di Erdogan è anche, insomma, filo occidentale, anche molto legato ai ribelli siriani, e quindi chiamiamoli ribelli, diciamo che sono mercenari. Mercenari, giusto per chiarire però questa posizione, perché ormai non c'è neanche più bisogno di, cioè ormai sono palesate delle cose, giusto per chiarire questa cosa, c'è da dire che è stato dato il via libera proprio alla possibilità di commerciare da parte dell'Unione Europea armi ai ribelli siriani, e quindi insomma questa notizia volevamo giusto dare, perché poi nel frattempo appunto ci sono una serie di cose che passano mentre diciamo i mainstream passano cose più inutili, futili o comunque deviate, e intanto passano queste belle notizie, ecco. And he don't steal or cheat or drink or lie. Well, his name is Codeine, and he's the last thing I've seen. And together we're gonna wait around to die. Sì, ricordiamo che questa è la trasmissione della Coordinamenta e siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E ricordiamo gli indirizzi di posta: potete iscriverci al coordinamenta con due o @autistiche.org, oppure ascoltare la diretta su coordinamenta.noblogs.org. I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true. That jazz. Baby, you're too much. You got the skin I love to touch. And I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Dove stiamo andando? Ci hanno raccontato che il fatto che moltissimi americani e americane vivano nelle roulotte è dovuto allo spirito di frontiera che anima molti e molte di loro. Molti altri e molte altre vivono in case prefabbricate, per non parlare di quelle e quelli che dormono nelle automobili. I filo americani talebani, cioè integralisti, per intenderci quelle e quelli che sposano tutto quello che viene dagli USA a prescindere, fanno finta di non sapere i numeri della popolazione detenuta statunitense. Il 25% dei detenuti mondiali a fronte del 5% della popolazione mondiale, con un'altissima percentuale di ristretti non per aver commesso un reato, almeno così come noi in Europa ancora lo intendiamo, ma rinchiusi in carcere per debiti, praticamente come ai tempi in Europa di Oliver Twist. Ci sono molte persone in carcere per non aver pagato multe, tasse, non aver saldato la carta di credito o il prestito sull'acquisto della macchina.

E allora volevamo anche un attimo ricordare che domani dalle 19 in poi, qua a Via dei Volsci 22, ci sarà un aperitivo nel nostro spazio separato di femministe, sì, e lesbiche. Sì, ci sarà un aperitivo che in realtà serve per autofinanziare una porta che era la porta appunto del 22 che è stata fatta scoppiare. Sì, sì, abbiamo dovuto rifarla per l'ennesima volta e quindi c'è l'aperitivo, ma diciamo una festa di strada, sì, sì, una cena per strada, non so neanche come chiamarla, e comunque venite. Sì, sì, sperando che il tempo sia clemente, sennò comunque insomma dentro è molto spazioso quindi, dalle 19 in poi. Ah, e poi vi ricordiamo anche che chiaramente l'11 c'è l'ennesimo tentativo di accesso da parte dell'ufficiale giudiziaria sempre alla sede di Femministe e Lesbiche del 22, e quindi l'appuntamento è per tutte lì davanti alle 8:30. Solita colazione resistente, venite numerose. Siamo di nuovo qua per la seconda parte. Oggi occuperemo un po' più di tempo perché sforeremo rispetto alle 21, perché la trasmissione che dovrebbe venire dopo non c'è e quindi ci possiamo permettere un po' di agio. l'approfondimento di oggi vorremmo farlo su un'iniziativa che ci è piaciuta molto, che c'è stata ieri, che hanno organizzato ieri le compagne di Degage all'interno di letteratura e insomma delle giornate di letteratura e conflitto alla Sapienza, e in particolare questa iniziativa di ieri era a Giurisprudenza alle 5 ed era organizzata dalle compagne insieme a Silvia Baraldini. Era una sorta di presentazione, discussione, confronto su un libro di Toni Morrison che si chiama Amatissima. Allora, prima di tutto diciamo due parole su chi è Toni Morrison, che è lo pseudonimo di Chloe Anthony Wofford, scusate la pronuncia, che è una scrittrice statunitense vivente di origine africana. Ha scritto diversi libri, nel senso che Amatissima non è il suo primo libro. Adesso me li vado a cercare, ma diciamo che quello che mi ricordo benissimo, che è degli anni 70, è il suo primo romanzo, che si chiama L'occhio più azzurro. Racconta per esempio di una bambina nera che desiderava tantissimo, soffrendo la sua condizione di emarginazione, gli occhi azzurri dei bianchi. Allora, questo a cosa ci introduce, diciamo, il suo primo romanzo? Praticamente al fatto che Toni Morrison è una scrittrice che si è sempre occupata di raccontare gli oppressi e le oppresse negli Stati Uniti, che poi sono riconducibili per la maggior parte agli afroamericani, e che insieme anche a tutte le soggettività immigrate di altro tipo, che anche quelle sono tantissime, però gli afroamericani, venendo dalla schiavitù dell'Ottocento, hanno una storia particolare, e quindi lei ha cominciato a raccontare un altro volto degli USA. You ain't nothing but a hound when something around the door. You ain't nothing but a hound dog when something around the door. You can wag your tail, but I ain't gonna be a you know. Told me you white man, but I can see through that. Allora, siamo nel 1855. Amatissima è un romanzo sulla schiavitù e sulla maternità, due istituzioni opposte eppure contigue, entrambe attraversate dall'idea di possesso. Lo spunto per il romanzo, pubblicato nel 1987 e vincitore del premio Pulitzer l'anno successivo, è stato offerto a Toni Morrison da un fatto di cronaca riportato in un articolo pubblicato nel 1855, come dicevo prima. Margaret Garner, una schiava fuggitiva del Kentucky, quando si rende conto che stanno per ricatturarla, uccide la figlioletta affinché non venga fatta schiava. La storia si svolge nella seconda metà dell'Ottocento. Seat, che è una giovane donna di colore che in America durante la schiavitù, decide di fuggire verso la libertà, portando con sé i suoi 3 figli. Scoperta dal padrone, che tenta di riprenderla, rifiuta per sé e per i propri figli un destino di schiavitù. E poiché la schiavitù le ha insegnato che l'unico paradigma di rapporto possibile fra gli esseri umani è il possesso, tenta di ucciderli tutti, colpendo a morte soltanto la più piccina, ancora senza voce e passi, scrivendole sul corpo la sua decisione, cancellandole il volto e la voce. Sid spiega a Paul D che stava cercando di mettere i bambini al sicuro. Morta per mano della madre, morta per troppo amore, il suo fantasma tornerà e, come pegno da pagare per la sua vita non vissuta, sconvolgerà quella di Sid. E infatti il titolo Amatissima viene da qua, no? Perché la schiava fuggita uccide la figlia proprio per troppo amore, perché la ama talmente da non volerle far passare quello che lei ha passato e quello che ci vuol poca immaginazione a immaginare, a pensare la vita che passerà la bimba. Silvia Baraldini ieri ci ha raccontato, perché la discussione poi è stata molto bella, molto interessante, ci ha raccontato che negli Stati Uniti che questo romanzo è basato su una legge che c'era negli Stati Uniti a metà dell'Ottocento, per cui c'erano gli stati che erano schiavisti, per cui gli schiavi erano proprietà del padrone. Se però c'erano anche degli stati in cui però la schiavitù non era prevista, quindi se uno schiavo riusciva a oltrepassare il confine, a passare in uno stato vicino che non aveva la schiavitù, poteva considerarsi libero. Però c'era un però: finché era prevista la possibilità che il padrone lo cercasse, e se lo trovava anche nello stato in cui era in libertà, poteva rivendicarlo come proprietà, perché in effetti lo schiavo era una proprietà, era un oggetto, e riportarselo a casa. E infatti la storia racconta proprio di questa donna che, quando si rende conto che il padrone l'ha ritrovata, è in quel momento che ammazza la figlioletta, perché non vuole che venga riportata alla piantagione. Poi una nota a margine: la piantagione viene chiamata nel libro Sweet Home, cioè casa dolce casa, e che è un nome che soltanto un bianco poteva dare a una piantagione dove c'erano gli schiavi. C'è un bel pezzo, per esempio, che sui bianchi, che è tratto dal libro, che vi vorremmo leggere e che rende molto quello che è il rapporto tra gli afroamericani, cioè il sentire dei bianchi e il sentire degli afroamericani. I bianchi credevano che, qualunque fosse la loro educazione, sotto ogni pelle scura si nascondesse una giungla. Acque vorticose non navigabili, babbuini che si dondolavano gridando, serpenti addormentati, gengive rosse pronte a succhiare il loro sangue dolce di bianchi. In un certo senso, pensò, avevano ragione. Più la gente di colore si sforzava di convincerli di quanto fossero gentili, intelligenti, affettuosi, umani, più si usavano a pretesto per persuadere i bianchi di qualcosa che i negri credevano fosse fuori discussione, e più la giungla dentro si faceva fitta e intricata. Ma non era la giungla che i negri avevano portato con sé in quel posto dall'altro posto, vivibile. Era la giungla che i bianchi avevano piantato loro dentro, e cresceva e si allargava prima, durante e dopo la vita, fino a coinvolgere i bianchi stessi che l'avevano creata. Li rendeva crudeli, stupidi, più di quanto non volessero esserlo, tanto erano spaventati da quella giungla di loro creazione. I babbuini urlanti vivevano sotto la loro pelle bianca, le gengive rosse erano le loro. Won't you meet me, Jesus? Won't you meet me, Jesus? Won't Quello che ha letto Laura mi ricorda una frase dell'ultimo dei Moicani, in cui il protagonista incontra la ragazza bianca. Il protagonista è un bianco allevato dagli indiani, che ormai chiaramente ha un altro modo di pensare. Incontra la ragazza bianca e dopo il primo scambio di parole dice: sì, mio padre, che sarebbe il capo indiano, aveva ragione, perché mi diceva sempre non cercare di capirli, non cercare di farti capire, perché loro sono diversi. In my ear through religion, in my heart. Well, well, I can ring up my Jesus. Well, I can ring up my Jesus. Well, I can ring up my Jesus. Jesus gonna make up my dying bed. And I'm going on down to the rock, stick my soul troubles over. Lord, I done made it to the promised land. Well, well, well, I done crossed over. Well, well, I done crossed over. Well, well, I done crossed over. Jesus gonna make up my dying bed. Molto importante che ci ha raccontato Silvia Baraldini ieri è che questo romanzo Amatissima per la prima volta racconta un mondo dalla parte di chi quel mondo di chi è partecipe, è quel mondo, rappresenta quel mondo, è vissuta in quel mondo, ha il suo mondo, cioè non è una visione. Non è un bianco che scrive degli afroamericani, ma non è neanche un afroamericano che scrive degli afroamericani, è essere afroamericani, per cui l'è impostato anche su tutto un altro tipo di cultura, cioè cioè la cultura che fa riferimento a una religione animista che poi si è collegata col protestantesimo e da cui è venuto fuori una miscela che è praticamente estremamente particolare, per cui anche la bambina, questa bambina che viene uccisa, poi ritorna come fantasma nei sogni della madre e la tormenta, perché in effetti lei è stata ammazzata, uccisa, è stata uccisa di morte violenta. E questo fantasma della bambina riesce a essere cacciato soltanto quando la madre chiama in aiuto la comunità. Quindi c'è anche questo messaggio che ci si deve ritrovare. Anche. Cosa? Autodeterminazione. Sì, sì, autodeterminazione, ritrovarsi nel gruppo, nella comunità. Fare in modo che la liberazione nasca dai rapporti tra le persone. Riconoscersi, insomma, e quindi affrontare insieme, certo, in qualche modo, riconoscersi in questo caso all'interno appunto di una, diciamo, una comunità, ma quello che possa essere la classe, quello che possa, certo, essere il genere, insomma. Noi siamo sempre in senso convinte che è impossibile impostare un percorso di liberazione senza tener conto degli intrecci di razza, genere, classe. Sì, no, una cosa anche interessante che appunto è stata detta ieri, anche il fatto ad esempio riguardo a questa cosa che hai detto tu, riguardo al modo in cui lei racconta questa storia, che appunto in realtà Toni Morrison si definisce scrittrice e non scrittrice nera, in quanto ci tiene a precisare che lei è semplicemente racconta, ecco, l'America, ma cioè esattamente l'America vissuta però dalla parte dei, appunto, di, come diceva lei, di un afroamericano, anzi di un'afroamericana in questo caso. Però la sua storia in realtà ha lo stesso identico valore di quella che può avere la storia dell'America scritta da, ecco, da un bianco. Quindi insomma ci tiene molto a precisare questo, che è semplicemente come un punto di vista differente di una stessa cosa, e cioè perché effettivamente l'America come noi oggi la conosciamo in realtà appartiene tanto a chi l'ha dominata, tanto a chi invece è stato dominato, e quindi insomma, cioè, è importante anche che comunque venga, cioè, che lei abbia fatto questo tipo di lavoro di mettere sempre comunque insomma in qualche modo, cioè, l'accento sul fatto che quella non è che era una versione, appunto, la versione romanzata di qualcuno dall'esterno che raccontava una storia, no, era la versione sua, di chi in prima persona si è vissuto degli avvenimenti, e semplicemente a cui non viene dato generalmente voce, perché è chi nella storia purtroppo ha avuto la sfortuna di stare dal lato, diciamo, sbagliato, ecco, non saprei, sfortunato, non so neanche come dire, però quella degli oppressi, ecco, categoria degli oppressi. Infatti Toni Morrison dice in un'intervista al Corriere della Sera del 19 dicembre 2008, dice: basta, io non sono una scrittrice nera. Se io scrivo di afroamericani, i critici mi definiscono black writer. E se John Cheever scrive di bianchi del New England, la discussione si impronta sulla complessità del racconto. Spero che un giorno la letteratura non sarà più divisa tra bianca e nera. E poi, come femminista, mi ha colpito un'altra dichiarazione che lei ha fatto, che dice: un tempo, se una famiglia nera doveva mandare un figlio al college, sceglieva le femmine, perché i maschi rischiavano di essere uccisi non appena avevano successo. Il primo linciaggio a cui assistette mio padre fu quello di un uomo d'affari nero della Georgia. Thank you. E poi mi ha colpito molto la trama del romanzo Amore, che è del 2003, che racconta la storia di un'amicizia tra due bambine che si rompe quando il nonno di una delle due decide di sposare l'altra appena undicenne. E questo in effetti apre sul maschile, no? Perché il maschio è cinico, egoista, dominatore, viene fuori un'immagine del maschio di questo tipo, e l'amicizia, e riesce a tramutare l'amicizia tra le due bambine in odio. Questa amicizia poi si ricomporrà alla fine, però è il comportamento maschile che riesce a trasformare un rapporto di amicizia in odio. Io questo sempre, diciamo, da donna e da femminista lo sento in maniera particolare, perché penso che l'indagare non soltanto, ho visto che Toni Morrison non indaga soltanto l'Afroamerica, chiamiamola così, ma indaga molto il femminile. You and me, we used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be Questa è la trasmissione a cura della Coordinamenta. Siamo in onda su Radio Onda Rossa 87.9. E se volete potete scriverci a coordinamenta con due o @autistiche.org, oppure seguire il nostro blog su coordinamenta.noblogs.org. E ora c'è una chicca. Niente, per chiudere questa trasmissione, visto che abbiamo parlato insomma di Amatissima, della storia comunque dei afroamericani, volevamo lasciarvi con una canzone che probabilmente conoscete, che è Strange Fruit, che è attribuita storicamente a Billie Holiday, che comunque insomma e in cui diciamo che rimanda proprio a quella che è stata, diciamo, la carneficina che è stata fatta dei schiavi neri nell'America del Sud. E vi leggo anche il testo, che tanto è molto breve. Uno strano frutto. Gli alberi del Sud danno uno strano frutto. Sangue sulle foglie e sangue alla radici.